E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torneremo con il nostro appello sul finanziamento ai partiti. Ieri abbiamo lanciato un'iniziativa, vi torneremo, fra poco la racconteremo, visto che a luglio tutti i partiti italiani devono ricevere 170 milioni di euro quasi di nuova tranche del finanziamento ai partiti. Ma venendo alla cronaca e all'attualità di questa giornata, i mercati hanno tentato un rimbalzo, c'è chi scrive rimbalzo del gatto morto usando l'espressione inglese, per cui anche se lanci un gatto morto da un grattacielo lui quando atterra rimbalza, nel senso che Milano fa più 1,6%, Parigi più 0,70%, Francoforte più 1% e Londra più 0,70%, l'America più 0,77%, ma insomma in Europa restano tutte le preoccupazioni che ieri avevano affossato i mercati a partire da Piazza Affari. Ci sono recuperi anche interessanti su alcuni titoli, no, sono sempre e comunque recuperi parziali, quindi Popolare di Milano più 6,20, Intesa San Paolo più 5,5, Unicredit più 5,1, Banco Popolare più 3,90, Impregilo più 3,20, Pop Emilia Romagna più 3%, Fiat Industrial più 3, Ubibanca più 2,90, Mediobanca più 2,5. Perde ancora invece oggi Esti Microelectronics meno 0,38, Eni meno 0,24, Autogrill meno 0,80, l'Automatica meno 1,3%. Tra i titoli segnaliamo oggi anche Finmeccanica più 2,1 e Buzzi Unicem più 2%. Euroquota 1,31,74. Ci occuperemo, viste le varie dichiarazioni del ministro Passera da un lato, ma anche del ministro Fornero, del doppio fronte, quindi aumento dello spread italiano, non solo quello spagnolo, e riforma del mercato del lavoro. Questa sera alle 18 inizierà infatti l'incontro tra gli industriali e quindi la parte che riguarda in primo luogo Confindustria, ma ci occuperemo anche dell'andamento sui mercati finanziari. E poi ancora per quello che riguarda il tema caldissimo, a mio avviso, dei tagli alla spesa pubblica, nella seconda ora del programma cercheremo di capire come fanno gli altri paesi, nel caso specifico la Gran Bretagna, che ha annunciato tagli per la spesa pubblica da quasi 90 miliardi di euro. Ora, nessuno chiede tanto, ma visto che ieri c'era un'intervista al ministro Giarda, che è quello che ha la delega per fare la cosiddetta spending review, cioè la revisione della spesa, capire come si spende per vedere dove si può spendere meno, e il ministro Giada ieri ha detto: attenzione, non arriverà molto, sicuramente non tanto per abbassare le tasse, al massimo per i conti pubblici. Ci sembra che Giada abbia un atteggiamento molto molto prudente. Noi spendiamo 730 miliardi all'anno di spesa pubblica, ora una parte di questa è, nessuno la vuole toccare, nessuno vuole licenziare in un momento di recessione dipendente dalla pubblica amministrazione, creerebbe un circolo ancora di più vizioso. Però sui 130 miliardi che ogni anno la pubblica amministrazione spende per acquisto di beni e servizi, siccome alcuni sono bravissimi, altri sono abbastanza bravi e altri sono corrotti, è inutile girarci attorno, e quindi dietro c'è tutto un giro di sovrafatturazioni, magari di tangenti, di criminalità organizzata, ecco, su quei 130 miliardi, ministro Giarda, si può arrivare a un 10%, vorrebbe dire 13 miliardi, perché le stime che abbiamo visto vanno da un massimo di 7 a un minimo di 3-4 miliardi. Ecco, su questo secondo me è inutile continuare a dire non si può fare, perché piove, la situazione economica è quello che è, la borsa è in difficoltà, anche oggi due suicidi di imprenditori tra ieri e oggi, e ne parleremo più avanti. E se no viene in mente una mitica canzone di Iannacci, oggi cambiamo un po', partiamo da quella, perché se non si capisce che se il sovrano, come ha detto Ceronetti, non capisce dove ancora deve operare, che non si possono solo chiedere tagli a chi lavora, aumento delle pensioni, aumento delle tasse, giustamente la lotta all'evasione fiscale, ma la spesa pubblica, la parte improduttiva, laddove si ficca la corruzione, le prebende, le amicizie, la politica che stiamo guardando in questi giorni, PD, Lega, nessuno escluso, se no... È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Ma sì. Stiamo allegri che sennò piange il re. Petrolio in rialzo, $101,34 al barile. Il Fondo Monetario dice dall'aumento delle aspettative di vita vi saranno costi finanziari enormi. Io non so cosa voglia dire questo. Vuol dire che bisognerà ripensare all'età pensionabile, non che l'aumento della vita media per il Fondo Monetario Internazionale sia un problema, perché i costi finanziari saranno enormi, eh? E parla del rischio longevità. Ora, io dico, caro Fondo Monetario Internazionale, ma si può parlare del rischio longevità? No? C'è il rischio che tu viva troppo a lungo? Siamo messi a questo livello? Lo spread, dacci oggi il nostro spread quotidiano. Allora, lo spread è in calo a 368 punti base, sempre un livello più alto, siamo quasi a 100 punti in più rispetto a un mese fa. Ripiega anche quello spagnolo, sempre la differenza tra noi e Berlino, in questo caso tra Madrid e Berlino, scende a 404 punti base. Però oggi il Tesoro ha collocato i bot a 12 mesi, 8 miliardi di bot a un anno, e il rendimento è raddoppiato, cioè ci è costato trovare finanziatori per il nostro debito a un anno il doppio, il 2,84% rispetto all'1,4% dell'ultima asta di marzo. E in rialzo ancora di più i bot a 3 mesi. A marzo abbiamo potuto offrire solo lo 0,50%, oggi abbiamo dovuto offrire l'1,2% per i 3 miliardi di bot a 3 mesi. Buona la domanda, devo dire, quasi doppia per i bot a 3 mesi e buona anche per i bot a un anno. Ieri abbiamo raccontato con l'amministratore delegato dell'IKEA Italia il perché l'IKEA torni a investire sui fornitori italiani rinunciando a quelli asiatici, e oggi invece, ed era una buona notizia chiaramente, oggi invece dobbiamo raccontarne una non così buona, perché la Stock, vi ricordate la Stock, quella dei liquori, annuncia, lo Stock 84, ma fa anche limoncella, vodka, Gleklevich, la grappa Giulia. Insomma, ha annunciato la chiusura della storica fabbrica di Trieste e il trasferimento da giugno nella produzione dello stabilimento in Repubblica Ceca. Nulla di male se vi fosse ancora l'impero austro-ungarico. In realtà la decisione comunicata oggi è dettata, secondo quanto ha detto la Stock, da un contesto commerciale che risente della contrazione dei consumi e dalla necessità di restare competitivi, consolidando la produzione per ridurre i costi e aumentare l'efficienza. Nello stabilimento di Trieste lavorano comunque 28 persone e vengono prodotte 20 milioni di bottiglie l'anno. La vicenda Ducati. La casa automobilistica tedesca Audi potrebbe rendere noto l'acquisto del marchio Ducati già la prossima settimana. L'ho scritto l'edizione online del quotidiano tedesco Handelsblatt, che ha citato fonti riservate. Qui, come nel caso Bulgari, allora nessuno può essere obbligato a comprare la Ducati, però è un vero peccato, mettiamola così, che nessuna impresa italiana, nessun grande gruppo, nessun fondo di investimenti si sia fatto avanti per comprare la Ducati. Arriveremo anche alla nostra ormai rubrica, ahimè, della crisi, anche perché oggi sui costi del sistema italiano di finanziamento ai partiti, voi pensate che dal 94 a oggi in Italia si sono spesi 500 milioni di euro per le elezioni, ma i partiti hanno ricevuto 2 miliardi, di cui il 75% non documentato. Vabbè, è intervenuto anche il Consiglio d'Europa definendo carenze importanti, controlli inefficienti e sanzioni inefficaci. Mancava solo, non so, uno sberleffo, una pernacchia, il modo in cui l'Italia finanzia i partiti. Ripeto, ci sono carenze importanti, controlli inefficienti, sanzioni inefficaci. Una situazione secondo Strasburgo, dove bisogna porre rimedio urgentemente. E arriveremo anche, dicevo, alla nostra rubrica sulla crisi, oltre che all'appello ai partiti a destinare questi 170 milioni che riceveranno a luglio, a fine luglio, di rimborsi elettorali, le elezioni del 2008 e quant'altro. L'appello a girarli a un fondo di investimento, un fondo di emergenza per le piccole imprese, i piccoli imprenditori in difficoltà e i loro dipendenti. Vorrei però parlare anche delle banche, vorrei farlo una volta tanto non con i banchieri, ma con chi rappresenta l'associazione che ha le fondazioni e le casse di risparmio del mondo bancario, quindi 88 fondazioni bancarie. L'associazione si chiama ACRI e il presidente è Giuseppe Guzzetti. Buonasera, presidente. Buonasera. Allora, le fondazioni bancarie in Italia gestiscono un patrimonio di circa 50 miliardi di euro, hanno partecipazioni per un controvalore nelle banche di 25 miliardi, le più grandi sono la Cariplo, che tra l'altro ha il 4,5% di Intesa San Paolo, la Compagnia San Paolo, che ha quasi il 10% di Intesa San Paolo, la Fondazione Monte dei Paschi, che ha il 40% del Monte dei Paschi, poi c'è anche la Fondazione Cassa di Risparmio Verona Vicenza Bruno Ancona, che ha il 3,5% di Unicredit, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che ha il 3,8% di Unicredit. Oggi voi avete celebrato il centenario, le chiedo subito qual è, per i prossimi 100 anni, che è anche un augurio, ma soprattutto per i prossimi anni a venire, quelli più a breve, il ruolo che lei vede delle fondazioni bancarie, vista la criticità del paese e visto che negli ultimi 4-5 anni, presidente Guzzetti, è cambiato il mondo. Guardi, noi svolgiamo due funzioni. Come investitori, lei ha citato le partecipazioni che alcune nostre fondazioni hanno in alcune banche al nostro paese. Su questo punto bisogna essere chiari, noi non siamo i padroni delle banche, abbiamo quote di assoluta minoranza, non abbiamo patti di sindacato di nessun genere e quindi in questo caso delle nostre azioni che possediamo sulle banche, noi siamo investitori cosiddetti istituzionali, cioè abbiamo una parte del nostro patrimonio, talvolta reveniente fin dall'inizio, quando si sono inventate le fondazioni e si è dato come patrimonio delle fondazioni il valore delle banche, noi siamo investitori, mettiamo soldi, cerchiamo di fare in modo che le nostre banche siano solide. Ricordo che in Italia, a differenza della Germania, della Francia e dell'Inghilterra, non parliamo degli Stati Uniti, che il signor Obama ha messo miliardi di dollari nelle banche fallite, nei questi paesi europei i contribuenti sono stati costretti, attraverso naturalmente l'intervento del governo, quindi soldi pubblici, a salvare le banche. In Italia le banche la parte pubblica non l'ha salvata. Quando hanno chiesto le fondazioni di fare aumenti di capitale per avere banche con più patrimonio e quindi in grado di prestare i soldi alle imprese e alle famiglie, noi non abbiamo fiatato, come si usa dire, e abbiamo sottoscritto gli aumenti di capitale per rafforzare le nostre banche. Qui siamo investitori, nell'altro versante gli utili che noi ricaviamo dai nostri patrimoni li destiniamo ad attività di carattere sociale, anziani, disagio giovanile, disabilità, ricerca, ambiente, arte e cultura. Cioè in questo momento che c'è la crisi totale dei servizi sociali, non ci sono più soldi pubblici per gli anziani, altro che fare le polemiche sull'IMU delle fondazioni. Le fondazioni pagano l'IMU come tutti. Ecco, allora io volevo chiedergliela questa, però noi abbiamo letto, abbiamo capito una cosa, che alla fine la Chiesa Cattolica l'IMU la pagherà sui luoghi non di culto, che l'IMU la pagheranno anche gli anziani negli ospizi, e poi abbiamo letto che l'IMU invece non la pagano le fondazioni bancarie. Ma che è? No, ma questa è una balla. Questa è una disinformazione totale. Allora, le fondazioni bancarie pagano l'IMU sui loro immobili che detengono in proprietà come tutti i contribuenti in Italia. Gli immobili, badi bene che il patrimonio immobiliare delle fondazioni sono il 2% di quel patrimonio, di quel complesso di patrimoni che lei ha citato prima. Di questo 2%, una cosa assolutamente infima, sono patrimoni destinati ad attività di carattere sociale. Quando lei ha detto che non si paga l'IMU sugli immobili per il culto o gli immobili dove si fa attività di carattere assistenziale, ecco, noi siamo come gli altri utenti di servizi sociali, non paghiamo l'IMU su quegli immobili, ripeto, che sono di gran lunga meno del 2% di tutti gli immobili per i quali l'IMU la paghiamo. Noi per quegli stabili destinati ad attività di carattere sociale, guarda caso, proprio destinato agli anziani, l'IMU su quegli immobili noi la paghiamo. Quindi converrebbe, quindi a un anziano come gli altri, non è un'eccezione, no, però come si è scritto per le fondazioni, non è un'eccezione. I soggetti no profit che destinano immobili ad attività di carattere sociale non pagano l'IMU. Quindi, Presidente Guzzetti, a un anziano però converrebbe venire un immobile vostro piuttosto che in un ospizio, perché sull'ospizio la paga l'IMU. No, noi guardi che normalmente le fondazioni, questa è la normalità, perché siamo enti erogativi, non gestionali, normalmente le fondazioni erogano contributi ad altre fondazioni, onlus, cooperative sociali, imprese sociali, cioè tutto il mondo del terzo settore, del volontariato, che svolge lui questa attività di assistenza. In alcuni, ho detto, ma sono posizioni assolutamente marginali, qualche fondazione destina questi immobili ad attività di carattere sociale. Vabbè, diciamo che se fosse così, allora sarebbe sbagliato far pagare l'IMU, a mio avviso, sugli ospizi, ma sarebbe giusto non essendosi accorto che nel provvedimento originario dell'IMU aveva tassato i terreni agricoli, le stalle, aveva tassato gli immobili non delle fondazioni, gli immobili degli enti che svolgono attività sociale, con l'emendamento ha corretto questo errore. Quindi quello che i giornali, le televisioni, le rubriche televisive sono balle, hanno detto è una roba non vera, inesatta, perché non è che sia scritto il governo esenta gli immobili delle fondazioni e fa pagare i vecchietti. No, il governo ha mantenuto il regime precedente alla normativa sull'IMU, che prevede che gli immobili destinati ad attività di carattere sociale, non delle fondazioni, ma di tutti gli enti che svolgono attività sociale, sono esenti da IMU. Quindi lei ci sta dicendo che è solo sugli immobili classificati come enti non profit? No, perché ricordo che, ricordo che nel 2009 una sentenza della Cassazione aveva messo in dubbio l'equiparazione delle fondazioni ad altre entità non profit a fine di trattamenti fiscali più favorevoli. Anche questi sono articoli comparsi, credo che lei fa riferimento a degli articoli comparsi sul Tempo. Articoli che no, si segnalano c'era dappertutto, c'era. No, l'abbiamo trovata dappertutto, comunque non è importante la fonte, quindi non nessun. Ma le spiego, non è così. Questa sentenza della Corte del Lussemburgo ha detto un'altra cosa, ha detto le fondazioni, perché il giudice della Corte di Cassazione che ha ricorso alla Corte di Giustizia di Lussemburgo chiedeva di annullare una decisione della Commissione, guarda caso, su proposta di Monti, che ha stabilito... Ho capito. Le fondazioni sono enti no profit. Allora questo giudice ha detto annullate quel provvedimento perché le fondazioni, avendo partecipazione alle banche, sono profit. No, la Corte di Giustizia ha emesso una sentenza che dice le fondazioni di origine bancaria sono enti no profit, stanno nel sociale. Sì. È chiaro che se però le fondazioni svolgono un'attività profit, tipo la partecipazione delle banche, in Italia è vietata la legge, di una industria che produce bulloni, voi dovete verificare, ha detto il giudice nazionale, se svolgono attività profit. No, ho capito. Allora, diciamo così, Presidente, allora profit. Voi pagate l'IMU tranne quando... Un attimo, perché volevo parlare anche di altro. Pagate l'IMU tranne quando le vostri immobili svolgono, in alcuni rari casi, una quota marginale, che il 2% dei casi svolgono un'attività no profit. No, quindi meno del 2% sono tutti gli immobili su quali meno del 2%. Quindi non è vero, l'IMU la pagano i vecchietti e non le fondazioni. Il titolo nuovo dovrebbe essere l'IMU la pagano le fondazioni e anche i vecchietti, perché quello purtroppo ce lo teniamo. Mi dica una cosa. Poi le dico un'altra cosa: hanno aumentato la tassazione sulle rendite finanziarie. La liquidità nostra è investita in gestori italiani, stranieri, eccetera. Hanno alzato dal 12 al 50% al 20% questa tassazione e noi paghiamo il 20%. Questo l'abbiamo raccontato. Mi dica una cosa, Presidente Guzzetti, ma il governo Monti è un governo, visto che lei è vero che non fa il banchiere, ma fa il presidente delle fondazioni, che sono un faro di riferimento nel mondo bancario. Il governo Monti è un governo amico delle banche? No, il governo Monti, da che è al governo, ha fatto una serie di provvedimenti che hanno fortemente colpito le banche nel nostro paese. Quindi la favola metropolitana che questo è il governo dei banchieri serve solo a quelli che in Parlamento e fuori del Parlamento, non avendo più nemici da attaccare, hanno pensato bene che adesso identificano la banca come il nemico sul quale tutti i giorni con fissità paranoica concentrare le loro polemiche. Il governo Monti ha fatto, lei si documenti presso l'ABI, che naturalmente l'associazione delle banche, lei vedrà che in tutti i provvedimenti le banche hanno avuto delle conseguenze fiscali e non fiscali di carattere negativo. È nemico delle banche? No, non è nemico delle banche, ha fatto pagare di più le banche. Io non dico che è nemico delle banche. Per capire. Allora, su questo però lei diceva, attenzione, perché qua la banca sta diventando, adesso sintetizzo, il nuovo capro espiatorio. Ma è così o non è così? Lo chiedo a lei che è un giornalista. No, secondo me non è così, però... I giornali, le televisioni, mi faccia rispondere, le rubriche sono pieni di attacchi alle banche. Chi in Italia sta mandando lavoro al paese sono le banche. Allora, no, la domanda è questa, infatti. Io penso che non le banche non siano un capro espiatorio, però faccio notare una cosa. No, aspetta un attimo. Non penso neanche che tutti i mali del mondo derivino dalle banche, né dalla politica. Penso che ci sia una distribuzione non equanime, ma con diversi pesi. Ma la mia opinione non è così importante. Volevo capire, i prestiti bancari, dato della Banca d'Italia, c'è stata una frenata nettissima anche a febbraio. Allora, la domanda che io le faccio, più per la sua conoscenza e per le antenne che ha dentro il mondo bancario, lei non è appunto un banchiere, ma... I 250 miliardi che Mario Draghi ha dato alle banche italiane, Presidente Guzzetti, diciamocela io e lei, tanto non ci sente nessuno, sono serviti solo per ripianare i conti delle banche, comprare un po' di titoli di Stato e ricomprarsi un po' di obbligazioni. Cioè, questa è un'altra balla, caro. Non arriveranno mai agli imprenditori, mi dica. Ma chi l'ha detto? È un programma di balle oggi, Guzzetti, vabbè, andiamo avanti. Come è un programma? No, dico, di balle, io sto citando tutte le balle che circolano in giro. Però... Purtroppo se sono balle non posso mica dire che sono no, verità. Ma ci mancherebbe, Allora mi dica perché... No? Io le devo dire quelle cose inesatte. Mi dica. Intanto non è mica vero. Allora, vediamo di mettere le cose al loro posto. Primo, questi prestiti che sono dati dalla BCE sono prestiti che rappresentano una quota marginale delle risorse che le banche hanno a disposizione per fare il loro mestiere di banche, che è raccogliere il risparmio, remunerarlo, reinvestirlo e naturalmente avere il giusto rendimento di questo investimento, no? Quindi sono una quota marginale. Secondo, quando si dice ma una parte di questi soldi li hanno usati per comprare titoli di Stato italiano, secondo lei quando si fanno le aste, le nostre banche se non partecipassero cosa succederebbero di queste aste dal punto di vista dello spread, del fatto che lo Stato italiano avrebbe i soldi per pagare le rate di debito che mano a mano scadono per questo debito pesantissimo che abbiamo sulle spalle. Che quindi lei dice hanno comprato bot, quindi, però mi sta dando ragione nel dire che dovendo comprare bot e a mio avviso hanno destinato risorse per finanziamenti alle famiglie e alle imprese. Ma scusi, lei apre un giornale quotidianamente, lei vede che ci sono banche che nelle varie regioni, province, no, fanno convenzioni con la Confindustria, con le unioni industriali locali, con le app. No, Presidente, però abbia pazienza, io vedo anche questo, ma apro i giornali e vedo che ci sono, e leggo le mail, centinaia di imprenditori, lasciamo stare i gesti tragici, di cui parleremo più avanti, che lamentano il fatto che non ricevono finanziamenti dalle banche. Ma mi dica una cosa. Ma questo bisogna documentarlo. Vabbè, centinaia di imprenditori che dicono, no, migliaia, comunque, azionista di una banca. Vabbè, che mi dica una cosa, una critica, potenze. Presidente, visto che stiamo celebrando i vostri 100 anni e vi abbiamo augurato altri 100 anni, nonostante il Fondo Monetario oggi dica con una gaffa, a mio avviso, storica, adesso le riprendo, che c'è nel mondo il rischio longevità, che si pagherà di più. Allora, la longevità è tutto tranne che un rischio. Quindi bisogna ammazzare qualcuno. A meno che richiamare in vita Mendele, no, adesso un po' di pulizia dei vecchi. Ecco, no, vabbè, insomma, non si butti giù. No, non si butti so, giù, però. Che siamo ammalati di longevità, bisogna ammazzare i ma vecchi, qualche no? Ascoltatore suggerisce al Fondo Monetario di iniziare loro a ridurre il rischio di longevità. Però mi dica una cosa, una critica al mondo bancario in questo momento, lei cioè, appunto ha le antenne, li conosce tutti, presiede le fondazioni, le casse di risparmio, è tantissimi anni che conosce, ma scusi, uno sforzo in camera caritatis, uno sforzo che lei chiede alle banche. Ma io chiedo alle banche, e questo è quello che come fondazioni, là dove siamo azionisti, quando parliamo con i nostri manager senza interferire nella loro attività, sollecitiamo è appunto di sostenere l'economia reale, di dare finanziamenti alle famiglie, i mutui, rifar partire questa edilizia privata totalmente ferma. Ma scusi, lei ha letto che hanno firmato una convenzione, che hanno fatto la cosiddetta moratoria, cioè hanno differito tutti, sì, se l'abbiamo raccontata, mutui, cadenza, le hanno differite di un anno. È un gesto positivo o negativo? No, ma sai perché io dico? Perché tra il suo, è un gesto positivo, l'abbiamo raccontato, come anche con il presidente allora dell'ABI Mussari. Anche con il presidente. Io ho detto se possono fare qualcosa di ancora più buono, perché le vogliamo ancora più buone le banche. Noi abbiamo avuto Mussari ospite per raccontare appunto la moratoria importantissima. Segnalo però che insomma anche molti bancari, non banchieri, ci scrivono, visto che a quest'ora chiudono gli istituti e ci ascoltano, che in realtà la linea guida è stringere ma sui. Ma non è per niente vero. No, vabbè. Le abbiamo tutti noi. Guzzetti, le abbiamo tutti. Così vado a vedere. E così poi li licenziate. Beh, no, dai, no. Ma io conosco la realtà di Intesa San Paolo Spa, di cui sono azionista, piccolissimo, perché ho il 5%, no? L'amministratore delegato della nostra banca, il dottor Cucchiani, ha fatto dichiarazioni pubbliche nel senso che non ha mai dato disposizioni di restringere i crediti. È chiaro che prestare soldi vuol dire anche misurare il rischio, e talvolta quelli che stridano di più sono quelli che hanno meno merito di credito o che sono aziende che erano già decotte, che esplodono con la crisi, e naturalmente diventa abbastanza facile addossare sulle banche le proprie difficoltà, i propri disagi. Presidente, io le dico che Intesa San Paolo non ha mai dato disposizioni di restringere il crediti. Scusi. No, io citavo bancari, non imprenditori, dopodiché abbiamo sempre detto che la banca deve erogare credito con una sana e prudente gestione. Ma il suo mestiere avere. Sane. Come fanno gli utili la banca se non presta i soldi? Senta, però una cosa, esatto, però la cosa strana non è che poi si eroga credito, non so, a San Raffaele 1 miliardo, Fondiera 6 1,4 miliardi e poi piccola difficoltà, cioè siamo sempre convinti che non ci sia anche un problema di dimensioni di salotti, Guzzetti, no? No, io... No, non dico lei, dico il mondo bancario, che delle volte è più sensibile anche al nome, al peso, piuttosto che... No, perché... Ma guardi, sempre è questione di come si fa banca. Mm. Quando Intesa San Paolo ha prestato soldi, non cito il nome ovviamente... Mm. ad una grande azienda di moda, no? Per mesi, siccome questa azienda aveva difficoltà, hanno continuato a dire soldi mal investiti, soldi che ci rimetteranno. Beh, poi questa azienda è andata a quotarsi in borsa fuori d'Italia, la banca è rientrata nel suo investimento e con la remunerazione del capitale investito con molta soddisfazione. No, vabbè, Guzzetti, lei è bravissimo, perché sennò non sarebbe presente dell'Acri. Io ritengo che sì, no, è bravissimo, ma figo, non me lo devi dire, no, come lo devo dire, mica. Intanto le allungo la vita, le allungo la vita alla faccia del Fondo Monetario, auguro altri 100 anni di vita all'Acri. Resto dell'idea che in realtà ci sia stato un giro di vite, perché sono troppi i segnali che abbiamo, sicuramente alcuni sono pretestuosi ma altri sono del tutto reali, e il resto dell'idea, ecco, che... a me basta questa, guardi, questa sua affermazione, io ho grande stima di lei, ma la mia stima, se così si può dire, aumenta per questa sua affermazione, dove finalmente un giornalista qualificato come lei dice ci sono quelli che protestano a buon diritto, perché allora, magari hanno avuto una difficoltà, che... ma ci sono anche tanti che protestano a sproposito. Guzzetti, quindi, questo si chiama oggi... bacio della morte, se lei mi dice che stima di me con quello che è l'opinione del mondo bancario, io sto scherzando, ma sono finito come giornalista. In realtà l'abbiamo sempre detto, a parte gli scherzi, che... Da un lato bisogna stare attenti, la banca non ha l'obbligo, non è un ente di beneficenza, deve prestare con una sana e prudente gestione. Nel passato non sempre è avvenuto, se no i casi San Raffaele e Premafin, Fondiaria, sai, non li avremmo visti. Adesso prendiamo atto che le banche stanno prestando con maggior sana e prudente gestione, vorremmo vedere un po' uno sforzo in più, ma intanto auguriamo all'Acri, anche a lei, ci mancherebbe, perché oggi il Fondo Monetario ci ha fatto tutti quanti diventare scaramantici, 100 anni di vita, visto che festeggiavate i 100 anni. Grazie al presidente Giuseppe Guzzetti. Grazie, buona serata a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, vedo molti messaggi sul... per favore, no? Ognuno ha diritto di dire quello che vuole. Guzzetti ha difeso, devo dire, l'ha fatto anche con molta veemenza, ha difeso le ragioni del mondo bancario, altri non sono d'accordo, anche dal mondo bancario stesso, quindi sono impiegati del mondo bancario. Vabbè, noi ascoltiamo tutti. Al Fondo Monetario, volete un gufo per il Fondo Monetario che ha detto che esiste un rischio longevità, la frase quantomeno infelice, il rischio longevità nel mondo, ma sì, diamogli un gufo. Borsa, non posso continuare con Guzzetti, più 1,60% Milano, dicevo, più 0,60 Parigi, più 1 Francoforte e mezzo punto Londra, il recupero parziale sia sugli indici che sui titoli, Popolare di Milano più 5,90, Unicredit più 5,40, Intesa più 5,40 anch'essa, Banco Popolare più 3,90, Impregilo più 3,70, Popolare Emilia Romagna più 3,40, Fiat Industrial più 3,11, Mediobanca più 2,30, come Ubibanca il 2% lo guadagna, Buzzi Unicem e Salvatore Fragamo. Borsa in rialzo, dicevamo, quindi con Radio Corriere, Sole 24 Ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Rialzi e recuperi parziali, ripeto a chi scrive però al 349-238-6666. Vedo molti che dicono non è vero, lavoro in banca, ma hanno ristretto, ci hanno detto di non concedere credito. Alcuni scrivono che invece proprio la loro banca gli ha detto di acquisire nuovi clienti e imprese a cui concedere il credito, forse minoritari, ma noi non abbiamo una forza statistica su questo. E vedo anche, poi c'è chi scrive, lei non fa una trasmissione di economia, lei fa solo noiosissima politica. E allora cambi canale, siamo in democrazia. Paolo Paronetto, per fare della noiosissima politica, partiamo da Nokia, meno 18% alla fine. Sì, Nokia ovviamente è stato uno dei temi principali della giornata, ha tagliato le stime sui margini della divisione cellulari, quindi la divisione principale del gruppo per il primo trimestre 2012, anche le stime sono molto prudenti per il secondo trimestre. In borsa Helsinki è crollata ai minimi degli ultimi 15 anni e sul finale appunto è arrivata a perdere circa il 18%, quindi tutto il settore tecnologico ne ha risentito, in particolare in Italia ne ha risentito ST Microelectronics, che di cui Nokia è il principale cliente, che ha perso lo 0,94%. E così quindi capiamo anche perché perdeva ieri. Sì, esattamente, quindi probabilmente in attesa di questo annuncio. Ovviamente, un uccellino finlandese aveva avvisato qualcuno in borsa che sarebbero arrivati i conti di Nokia. Ha perso quasi l'1% a fronte di un FTSE MIB che invece è salito dell'1,6%, quindi ha fatto decisamente peggio del mercato. Allora, sui titoli che abbiamo già letto c'è poco da dire, lo spread è leggermente sceso, per carità è ancora alto, 368, ma è stato un pretesto, anche perché, ripeto, per la terza volta il recupero è solo parziale, non è un recupero che riporta le quotazioni a livello pre-ieri, quindi di venerdì, venerdì era chiusa la borsa, venerdì era aperta. Era chiusa, aperta, chiusa, adesso abbiamo avuto un flash tutti quanti in regia. Allora, Mertec Limon, tra le migliori di tutto il listino, oggi ha ottenuto un contratto da 500 milioni, è il motivo per cui il titolo cresce di quasi il 12%? Sì, esattamente, un contratto da 500 milioni con Total Italia per lo sfruttamento di un giacimento petrolifero in Basilicata, e quindi è proprio stato proprio questo annuncio che ha spinto il titolo, le cui quotazioni sono impennate dopo l'uscita di questa notizia, alla fine ha chiuso in rialzo dell'11,56% ed è la terza migliore prestazione dell'intero listino milanese. Oggi possiamo occuparci anche di titoli più sottili, ripeto, non ci sono notizie particolari se non quelle di rialzi generalizzati e parziali sui titoli bancari, su chi più aveva perso ieri. C'è un altro titolo di cui ci occupiamo poco, di Asorin. Che alla fine è un po' rallentato finale, ma comunque ha chiuso in rialzo dell'1,15, è arrivato a guadagnare quasi anche il trend nel corso della giornata. Qui c'è proprio una notizia di business, cioè industriale, ha lanciato le piattaforme Liaison per prodotti, per l'individuazione del morbillo e della parotite, di Asorin è attiva nella diagnostica, e che secondo gli analisti saranno una piattaforma di prodotti molto importante, potranno generare fatturato addizionale di 60-70 milioni da qui al 2015, e secondo anche il vertice della società è un passo avanti proprio per il raggiungimento degli obiettivi che si erano proprio prefissi, e quindi oggi il mercato ha premiato il titolo dopo questo annuncio. Dicevamo spread in leggero calo, è leggermente tornato su adesso a 3,70, però insomma meglio dei 400 punti di ieri. Su questo oggi è intervenuto anche il ministro Passera, proprio sulle tensioni e le preoccupazioni che arrivano da uno spread che è ripartito comunque, siamo a 100 punti in più rispetto a un mese fa. Le due cose fondamentali si chiamano Germania e Spagna, si sono aggiunti dati americani e cinesi non buoni che però di per sé non avrebbero cambiato l'umore. Dobbiamo fare in modo che l'Europa fino in fondo faccia la scelta di garantire se stessa. Così appunto il ministro Passera. Vi do anche gli altri migliori e peggiori. Buongiorno, più 15,60, Banca Popolare dell'Etruria più 13,40, Mertec Limon più 11,50, Risanamento più 10%, e Cape List Investment più 9,32%, Renault tra i peggiori meno 6,5%, Indesit meno 6,60, Mondo TV meno 20%. Grazie Paolo Paronetto, Radio Colli sulle 24 ore. Grazie a voi. E adesso ci occuperemo anche di un tema che a noi sta molto a cuore, ossia l'incarico che ha il ministro Giarda fare la revisione di spesa sulla spesa della pubblica amministrazione, 730 miliardi all'anno, e vedere dove si può risparmiare. Prima di tutto però avevo promesso un aggiornamento sulla vicenda mercato del lavoro, perché è successo un po' di tutto, nel senso che pochi minuti fa, 10 minuti fa, il direttore generale dell'INPS, Mauro Nori, rispondendo a una domanda sugli esodati, cioè quei lavoratori che sono finiti fuori dal lavoro perché hanno fatto un accordo di scivolo per arrivare poi alla pensione, ma adesso con l'allungamento dell'età pensionabile, con l'innalzamento dell'età pensionabile, si trovano scoperti per alcuni anni. Allora, già avevamo avuto modo di criticare il fatto che anche il ministro, con tutto il bene che le vogliamo, prima di fare la riforma ci potevate pensare che ci sarebbero stati gli esodati. Non si può dire non è facile il calcolo. Però il direttore generale dell'INPS Mauro Nori, rispondendo a una domanda in audizione alla Camera, ha detto: i lavoratori che nei prossimi 4 anni entreranno in mobilità sulla base degli accordi fatti entro dicembre 2011 sono circa 45.000, e poi altri 15.000 nel fondo solidarietà del credito e altri 70.000 sono usciti dal lavoro sulla base di accordi volontari, quindi 70.000 più 45.000, insomma a noi viene fuori circa 130.000. E invece il ministro aveva detto: domani avremo i numeri, quindi non si capisce se i numeri ci sono già o li avremo domani. Sentiamo il ministro. Io spero nella giornata di oggi di avere dei numeri, e quando voi dite ma come mai ci vuole così tanto tempo, è che questi accordi per mettere in prepensionamento le persone escono e sono difficilmente controllabili, e quindi non è facile, non è dipeso da cattiva volontà nostra questa difficoltà ad avere una stima accurata delle persone. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi. Vabbè, se noi ci chiarisse piangiamo. Però il ministro come mai il direttore generale dell'INPS oggi fornisce i dati e noi invece continuiamo con le nostre missioni. Non impossibili, no, le missioni, la spesa pubblica. Tra poche settimane è atteso il dossier, appunto, da parte del ministro per i rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Entro aprile, infatti, è prevista la consegna del dossier sulla cosiddetta spending review, e appunto la mission è impossible, non in altri paesi, perché lo dico subito: Australia, Canada, Finlandia, Giappone, Olanda e poi la Gran Bretagna già sono le prese non solo con la revisione dei costi, ma anche con i tagli. Cioè sono già arrivati a capire come spendono e dove possono tagliare. Noi invece ad aprile, secondo quanto dichiarato il ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda, dicevo, arriverà ad aprile il dossier realizzato da Piero Giarda, il quale però in un'intervista ieri sulla Stampa già mette le mani avanti. Eh sì, perché il ministro per i rapporti con il Parlamento, che ha anche la delega all'attuazione del programma, dice: attenzione, inutile attendersi che dai tagli e dalla spending review e quindi dalla revisione della spesa arrivino soldi per tagliare le tasse. I risparmi che effettueremo basteranno appena a non peggiorare i conti, e già questo, insomma, lascia così. E poi la stima. Allora, si era parlato inizialmente di 8-10 miliardi, poi nell'intervista Giada sembra dire forse più 4-5 miliardi di risparmi dalla revisione della spesa. Ora, un po' pochino, visto che la spesa italiana, secondo le varie cifre, comunque si attesta intorno alla spesa pubblica italiana, intorno ai 730 miliardi di euro l'anno. Stiamo parlando dello 0,5% di risparmio. Veramente, insomma, chi gestisce un'azienda, ma anche chi gestisce una famiglia, sa che se uno deve risparmiare può risparmiare di più. In realtà, di questi 720 miliardi, non è che tutto sia toccabile, perché 300 miliardi, il 40% servono per la pensione, per le rendite, la protezione sociale. C'è la parte invece che riguarda gli acquisti di beni e servizi. Nel 2011 136 miliardi. Lì, secondo me, e non solo secondo me, c'è più grasso, c'è più ciccia da tagliare. Allora, ipotizziamo che uno riesca a tagliare del 10% i costi per gli acquisti di beni e servizi. Vorrebbe dire risparmiare 13 miliardi. Il 10% si può fare sugli acquisti, e non stiamo toccando gli stipendi, perché Giada ha già detto non è pensabile un licenziamento del pubblico impiego. Stiamo raccontando a partire dalla sanità, dove sappiamo che le sacche di plasma in Calabria costano 16 volte quello che costano in Val d'Aosta, e non penso che il sangue dei calabresi, con massimo rispetto, sia un sangue 16 volte di maggior pregio di quello di un valdostano. Ma insomma, secondo me su 136 miliardi provare a risparmiare un 10% come idea, no? Dovrebbe essere possibile, se si vuole. Allora, visto che questo è un governo di tecnici, abbiamo chiesto a un tecnico di aiutarci a capire come fanno gli altri, non come faremmo noi con esercizi contabili, come fanno gli altri. Perché dico altri? Perché la Gran Bretagna, l'ha annunciato il primo ministro Cameron, taglierà da qua al 2015 81 miliardi di sterline, 97,7 miliardi di euro al cambio di oggi. Taglia i ministeri per il 20%, taglio di 7 miliardi, di quasi 8 miliardi e mezzo alle spese per il welfare, inclusi i benefici fiscali, taglio del 7% agli enti locali. Ora nessuno vuole arrivare a 97 miliardi, ma dai, 13 miliardi su 130 miliardi di spesa di beni e servizi si possono ipotizzare. Un po' di coraggio, Giarda, un po' di coraggio. Dicevo, chiediamo un tecnico, quindi diamo un aiuto tecnico ai tecnici. Il nostro ospite, il direttore generale di Bravo Solution, Ezio Melzi. Buonasera innanzitutto. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, voi avete 500 dipendenti in 13 uffici in 10 paesi, siete controllati dal gruppo Pesenti, fatturate 56 miliardi di euro di parcelle, di consulenze, milioni di euro, scusa, miliardi magari, era un augurio, milioni di euro in parcelle consulenziali, di cui il 40% in Italia, ma molto anche all'estero. Voi tra l'altro state non solo gestendo tutti gli acquisti, quindi veniamo al tema di come si risparmia nella spesa per acquisti di beni e servizi per le Olimpiadi di Londra, ma anche e soprattutto David Cameron, quindi il primo ministro britannico, vi ha chiesto di fare lo stesso lavoro per quella che è la spesa della pubblica amministrazione britannica. Vi ha chiamato, Giarda? Non ancora, siamo fiduciosi. Quello che l'esperienza che stiamo vivendo nel Regno Unito dimostra che le cose si possono fare. È chiaro che questi programmi richiedono un pochino di tempo, ma se mai si comincia, mai si portano a casa i risultati. Un po' di coraggio, dicevo io, perché la sensazione, ma ripeto, è solo una sensazione, è che il ministro Piero Giarda sia molto timido in questi tagli, cioè insomma, se devono pagare e soffrire tutti, e noi l'abbiamo detto più volte, deve soffrire anche la pubblica amministrazione. E ripeto, non è in discussione lo stipendio da 1500 euro dell'impiegato se lavora bene, perché anche lì poi bisognerebbe introdurre maggiori meccanismi di merito. Qui è in discussione la spesa per beni acquisti, dove dentro, lo dico io, non lo dice lei, c'è un po' di tutto, vale per l'amministrazione centrale quanto per quelle locali. Ci sono spese effettuate bene, ci sono spese effettuate con tangenti, ci sono spese effettuate con sovrapprezzi, c'è la criminalità organizzata al sud, ma non solo, c'è di tutto. Allora, come avete fatto in Gran Bretagna, e dov'è il punto dove secondo lei sbaglia l'approccio del ministro Giarda? Nel Regno Unito noi abbiamo trovato un forte supporto da parte della politica, ovviamente. C'è la chiara convinzione che questa cosa si vuole fare. E secondo lei questo manca in Italia? Ma forse manca il momento in cui si decide di iniziare questa attività, il momento in cui si dà, diciamo, il via a questa iniziativa. I primi risultati si vedono nel giro di pochissimi mesi, e a quel punto sarà facile sostenerla e sponsorizzarla. Quindi, diciamo, prima cosa potremmo dire ci deve credere l'esecutivo, in questo caso il governo. Ma ammesso e non concesso che ci sia questa forte volontà da parte di Giarda di arrivare a un risparmio, non noccioline, ministro, 4-5 miliardi sono noccioline, serio, 10 miliardi, parliamo di roba seria, visto che poi le manovre sulle pensioni, sulle tasse le fate serie, facciamo serie anche la spending review. Il ministro Giarda sembra aver elencato o sembra lavorare su un elenco di attività da chiudere o da tenere, adesso lo dico in maniera molto brutale, per carità. cioè enti, istituti, organismi della pubblica amministrazione che sono efficienti devono restare aperti oppure invece vanno ridimensionati. L'approccio britannico, o meglio l'approccio su cui voi siete chiamati a fare una consulenza per la Gran Bretagna, è così o è diverso? No, direi che è un approccio che è un po' meno dettato dall'urgenza e dall'asfissia, no? È un approccio più sistematico. Si stanno creando le condizioni affinché questi processi di analisi della spesa possano essere reiterati con la frequenza che si desidera. Ed è questa la cosa importante, ed è questa la cosa su cui noi siamo impegnati. Oggi esistono le tecnologie che consentono di fare queste cose e soprattutto di reiterarle nel tempo. La cosa importante è che noi non possiamo permetterci un intervento una tantum, dobbiamo creare le condizioni affinché queste modalità diventino l'abitudine per gli amministratori pubblici, cioè il controllo della spesa, il controllo dei consumi, l'attenzione al controllo dei costi deve diventare una preoccupazione quotidiana per chi ci governa. Quindi, se ho ben capito, non solo cosa lasciare aperto o chiuso, diciamolo così, ma anche andare nei dettagli trovando anche, utilizzando anche i sistemi informatici che ci sono. Io ho bisogno però che lei mi dica, dopo il traffico, esattamente cosa state facendo in Gran Bretagna per capire cosa possiamo adottare anche in Italia. 349-238-6666 per i vostri sms, il traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, dunque, Ezio Mezzi, appunto, direttore generale di Bravo Solution, ripeto per chi si fosse messo in collegamento, che sta gestendo non solo gli acquisti, quindi i risparmi per le Olimpiadi di Londra, ma anche e soprattutto la revisione dei conti pubblici e i risparmi e i tagli alla spesa pubblica britannica. Cosa state facendo in Gran Bretagna? La grande differenza è che noi stiamo lavorando sulla spesa di funzionamento, quindi diciamo al netto di quel processo che porta a dire questo lo tengo, questo lo chiudo, questo lo razionalizzo. Noi siamo già in una fase successiva, cioè abbiamo deciso che c'è un ammontare di spesa che è necessario in qualche modo per il funzionamento della macchina pubblica e stiamo intervenendo per ridurre quell'ammontare di spesa grazie a queste tecnologie molto innovative che tra l'altro sono sviluppate da una società italiana, quindi sono sviluppate da noi. Noi oggi siamo in grado di analizzare molto velocemente e con altissima precisione milioni di documenti che riguardano i processi di acquisto delle pubbliche amministrazioni e capire tutte quelle opportunità che ci sono, per esempio di aggregazione, per esempio di applicazioni di economia di scala, per esempio di applicazioni di regole di benchmarking e via dicendo. Cioè di avere un riferimento su quanto dovrebbe costare la esattamente, cosa. Esattamente, perché una cosa importante che credo manchi sul nostro territorio, che devo dire è molto articolato, molto complesso, il discorso non, in Italia non può essere così generalizzato perché... Beh, ci sono ASL al sud in cui non hanno un bilancio, non riescono ad avere un bilancio, è difficile fare la spending review quando ti manca lo spending. Esattamente, ma, e poi ci sono, solo la review. E poi ci sono anche delle differenze territoriali importanti. Oggi esistono delle tecnologie che consentono di esaminare milioni e di elaborare milioni di dati in pochissimi minuti. Tecnologie italiane sono le nostre tecnologie, le tecnologie che noi sviluppiamo in un centro di eccellenza americano. No, io capisco che Nemo profeta in patria, però insomma, forse un po' di... O se no prendiamo tecnologie inglesi per ridurre la spesa pubblica in Italia, va bene, il mercato è libero, è ampio, basta che da qualche parte si inizi. Senta, ma veniamo agli esempi concreti. Lei citava per esempio l'aggregazione per se devi comprare gli aghi, Cerotti. Adesso io vi dico alcune cose. Prima di essere commissariata la ASL di Reggio Calabria, pagava per un pacco di cerotti da 20 euro, si arrivava a pagare 3.500 euro. Per 6 nuovi camici ne ordinò 2.800. Il costo della TAC alla ASL di Palermo è sceso da 128.000 euro a 9.000 euro e non grazie a un sistema informatico ma grazie all'arrivo di un amministratore giudiziario, così come a Reggio Calabria tutto calò non grazie alla spending review ma grazie al generale dei carabinieri. Che mi porta a dire, ma in Italia è necessario il software informatico dell'Inghilterra o servono invece i commissariamenti delle ASL, secondo lei, in primo luogo? Beh, intanto l'utilizzo di soluzioni informatiche per gestire questi processi così delicati già di per sé implica rigore e disciplina verso quello che si sta facendo. Tra l'altro noi potremmo anche delegare un authority, per esempio, a guardare, a capire, ad esaminare questi processi di acquisto. Non credo che esista una formula unica per fare la spend analysis in Italia. Dobbiamo stare attenti molto al territorio. Io credo che questo sia fattibile per tutto quello che riguarda gli apparati centrali, perché questi dipendono essenzialmente dai ministri, e i ministri sono parte del governo. Su tutto ciò che riguarda invece il territorio, gli enti locali, io credo che noi obbligatoriamente dovremmo passare per una ricerca del consenso. Vuol dire creare quella, diciamo, cultura verso l'attenzione al costo, ma soprattutto informare gli amministratori che i loro provveditori stanno comprando a condizioni fuori dal mercato, a condizioni non competitive. Cito un esempio banale: se noi consideriamo un territorio omogeneo, quale può essere il perimetro di una regione, è importante che qualcuno informi l'amministratore del paese, non so bene cosa, che il paese confinante sta comprando lo stesso item o lo stesso servizio a condizioni di prezzo 15% più basse. Se manca questa informazione, noi non possiamo pretendere una reazione da parte dell'amministratore. E quindi, questa informazione la creo facendo l'analisi della spesa. Quindi prima si analizza la spesa, si scopre, visto che siamo in Lombardia, che in Lombardia 1000 comuni acquistano lo stesso bene a 1000 prezzi diversi, chi più chi meno, e quindi si dice attenzione, c'è uno spreco di risorse, e si usa come benchmark, come riferimento, l'esempio migliore, e si dice guarda che il bene lo stanno comprando a 1000 euro nel comune, in quei comuni lì, posizionatevi su questo, perché poi è un risparmio di soldi, il comune può destinare questi soldi, può non aumentare l'ICI o quindi l'IMU, applicare la tariffa minima dell'IMU, oppure può utilizzarlo per altri investimenti. Il secondo aspetto è, mi sembra di capire, che molto si gioca anche sui gruppi di acquisto. Adesso, un Groupon è una cosa un po' diversa da quello che può fare l'amministrazione pubblica, ma insomma il concetto non è molto diverso. Più ti metti assieme nell'acquistare beni che tanto servono a tutte le amministrazioni locali del territorio, più hai margini per contrattare prezzi migliori. Volevo prima sottolineare ancora una cosa importante. Dicevamo prima di mettere a disposizione degli amministratori le informazioni sulle performance di altri amministratori. Pensate che cosa vorrebbe dire rendere pubblici i risultati di questi confronti. Cioè il cittadino è a conoscenza che il suo amministratore sta comprando meglio o peggio dell'amministratore del comune vicino. Solo queste iniziative provocano la reazione da parte di chi ha le leve per risparmiare. Rispondo alla sua domanda. L'aggregazione a mio avviso ha due punti critici. Il primo è che se aggrego per sfruttare le economie di scala, devo affrontare il mercato di fornitura con un impegno all'acquisto, non con quelle che si chiamano le convenzioni. La convenzione non è un impegno a comperare, e quindi il fornitore non gioca la sua migliore competitività, il suo miglior prezzo, perché non è sicuro di avere quell'ordine. Cioè non è sicuro che tu comprerai, quindi non ti fa il prezzo migliore. Esattamente, se invece io faccio un'aggregazione, quindi sfrutto le economie di scala e metto sul tavolo dei mercati di fornitura un ordine quasi certo nel suo volume, nella sua quantità, sono sicuro che dall'altra parte c'è qualcuno che compete all'arma bianca pur di prendersi quel deal. C'è una cosa però critica sulle aggregazioni. Attenzione, perché c'è una regola che dice che tutte le volte che aggregando consumi riduco il numero dei fornitori, probabilmente a quel punto lì non mi conviene più aggregare, perché se riduco il numero dei fornitori potenzialmente interessati, il rischio che questi trovino degli accordi comuni di spartizione del mercato è molto forte. No, ma io non pensavo ridurre il numero di fornitori, pensavo ridurre il numero di acquirenti, e quindi avere maggiore forza e potere contrattuale. Io ho capito alcune cose, alcuni scrivono che abbiamo scoperto l'acqua calda, ma intanto ho capito che abbiamo sistemi informatici che vendiamo all'estero e dovremmo usare anche noi per avere sotto mano tutte e paragonare le varie spese di tutte le pubbliche amministrazioni degli enti locali, e che oltre a questo bisogna trovare dei meccanismi strutturali. Poi certo che se uno ha un vantaggio elettorale nell'avere il suo canale, perché dietro chissà cosa c'è, non se ne esce più. Grazie a Ezio Melzi, direttore generale di Bravo Solution. Prima di chiudere, il nostro appello, un appello che mi sento di condividere, anche perché oggi, tra ieri e oggi, altre due persone purtroppo si sono tolte la vita, e sono piccoli imprenditori, non ci stavano più dentro tra tasse e mancati ordini. Ai partiti che a fine luglio riceveranno quasi 170 milioni di euro di rimborsi elettorali, perché non li devolvete ad un fondo per i piccoli imprenditori in difficoltà? Aiutereste loro e i loro dipendenti. Tornereste vicini ai vostri elettori.